Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi, 1 dicembre, giornata mondiale contro l'AIDS, dal 1987 che il mondo celebra questa data per ricordare simbolicamente il primo caso che venne diagnosticato proprio il 1 dicembre del 1981. Da allora il virus ha ucciso oltre 25 milioni di persone, quindi diventando una delle pandemie più gravi con cui il mondo ha dovuto confrontarsi. Tutti noi, presumo, ricordiamo il clima di ansia, di paura, direi proprio di fobia che si respirava alla fine degli anni Ottanta, quando tutti noi ci siamo dovuti confrontare in modo pesante con lo spettro del virus HIV. A distanza di più di 20 anni le cose però sono cambiate, il virus continua a fare paura, ma non più forse così tanta paura come in passato. Allora cercheremo di capire oggi se questo è un passo avanti o rischia di essere una trappola. Sicuramente il profilo delle persone infettate e perciò sieropositive si è profondamente modificato rispetto alla fotografia che veniva scattata allora di questa infezione, ma un dato resta immutato: c'è ancora uno straordinario bisogno di prevenzione a tutti i livelli, in tutte le nazioni del mondo, in tutte le categorie sociali, perché questo ormai in ambito di AIDS è un principio innegabile: non ci sono categorie a rischio bensì comportamenti a rischio, e questi comportamenti interessano ciascuno di noi. Ne parleremo oggi approfonditamente con i nostri ospiti. Intanto vi ricordo il nostro numero verde 800 24 00 24 per intervenire. Saluto subito e introduco l'esperto che oggi resterà con noi per tutta l'ora e ci aiuterà a costruire la trama completa della storia del virus, dandoci anche una visione di cosa è successo, di cosa sta succedendo e di che cosa succederà. Saluto, e per me è un grande onore, un grandissimo piacere avere qua in studio il professor Mauro Moroni, che è docente di malattie infettive all'Università di Milano e presidente ANLAIS Lombardia. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Mi dà già più sicurezza averla qua. E io saluto, perché abbiamo chiamato rinforzi, è qua in studio con noi Lella Costa. Buongiorno. Ciao Lella, ciao, da ciao. Anni sostenitrice, io ho sentito una tua intervista, fiancheggiatrice, ti sei definita, sì, del CESVI, sì, e anche consigliera. E sei testimonial anche della campagna del CESVI che sta organizzando proprio in 200 librerie il virus Free Day. Sì. Fa piacere averti qui come testimonial, e anche qui nel corso della nostra trasmissione avremo modo di parlare anche del tuo impegno come attrice, come donna e anche come mamma. Direi forse soprattutto, nel senso che poi si finisce per misurare su di sé, sulle proprie realtà, la serietà, l'importanza delle cose che hai la fortuna di avere appreso, di aver imparato. Io sono, lo dico non per darvi assolutamente delle arie, però oggi è anche il mio anniversario di matrimonio. Ti sei sposata? Ci siamo sposati dicembre. Apposta. No, allora, non solo forse per questo, però insomma, visto che era una data che potevamo scegliere, abbiamo pensato che avesse un significato per non dimenticarsi di che cosa vuol dire questo giorno. E quindi credo di essere una persona che sicuramente fa molto meno di quanto fanno, a parte il professor Moroni, ma insomma quelli che davvero sono impegnati. Penso ai volontari ANLAIS, per esempio, e a tutti i volontari che fanno assistenza e danno proprio un'opera quotidiana e costante. Però credo che, siccome anche far girare la voce, insomma, la famosa condivisione delle informazioni sia importante, faccio quello che posso. Professor Moroni, partiamo da quelli che in gergo sportivo vengono chiamati i fondamentali di questo virus. Chi è? Cosa fa? Come si trasmette? Sono cose che dovremmo oramai sapere tutti, ma è bene richiamarle, perché le generazioni più giovani non hanno vissuto i momenti più duri e più tristi, quando di AIDS se ne parlava quasi tutti i giorni e una giornata come questa occupava le prime pagine dei giornali. Oggi bisogna andare a cercare le notizie nelle pagine interne ed è più difficile vederle. Ma si tratta di un virus che è calato in modo del tutto inaspettato su questa umanità. Si pensi che alla fine degli anni 70 veniva dichiarato estinto il vaiolo, un traguardo straordinario: veniva guarito il pianeta Terra da una pandemia. E questo aveva dato un po' l'impressione, assieme agli antibiotici, assieme ai vaccini, che ormai il problema delle malattie infettive fosse un problema pressoché risolto. Ecco, in questo contesto capita un virus che è andato selezionandosi nel tempo, forse a partire dagli anni 30, per trasformarsi da un virus delle scimmie in un virus dell'uomo. Ed è un virus di una straordinaria furbizia. Si insinua attraverso, ci contagia attraverso delle pratiche che per la specie umana sono importantissime, come l'attività sessuale, lasciamo perdere la tossicodipendenza che oggi incide molto meno, ma un virus che ha imparato a trasmettersi attraverso l'amore, attraverso gli affetti, attraverso la sessualità, attraverso di un qualche cosa che è irrinunciabile per la specie umana, che non dà segno di sé quando ci contagia, che lavora sotto la cenere per anni distruggendo la cellula principale del nostro sistema immunitario, fino a quando 3, 4, 5, 10 anni dopo il contagio diventiamo fragili nei confronti sia di tumori che di altre infezioni che in assenza di cure portano inesorabilmente a morte. Allora, vorremmo un po' dare una fotografia, dare qualche dato riguardo al nostro paese. In linea con noi abbiamo la dottoressa Barbara Suligoi, che è direttore del Centro Operativo AIDS all'Istituto Superiore di Sanità. Dottoressa, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Oggi il profilo delle persone sieropositive è cambiato. Un tempo l'HIV era relegato essenzialmente in due categorie di persone, chi faceva uso di droga e gli omosessuali. Oggi l'infezione, direi, è più democratica. Ci aiuta con qualche dato? Sì, i dati proprio che rileviamo in Italia sulle persone che si stanno infettando proprio in questi ultimi anni dimostrano che adesso le persone, diciamo, il prototipo della persona sieropositiva non è più, appunto, come ha giustamente detto lei, il tossicodipendente o le persone omosessuali, ma persone di media età, adulti di media età, attorno ai 30-40 anni, che fanno una vita normale. Deve uscire un po' dal nostro immaginario collettivo necessariamente la persona sbandata o comunque le persone che fanno una vita sregolata, ma nella maggior parte dei casi sono persone assolutamente normali che però hanno avuto l'incidente di incappare in questa infezione probabilmente perché hanno avuto, nella stragrande maggioranza dei casi, dei rapporti sessuali non protetti con delle persone infette, e che può darsi che in buona parte dei casi neanche queste persone infette sapevano di essere sieropositive. Si perde un po' la memoria della catena delle trasmissioni ed ecco che ci troviamo in Italia con circa 170-180.000 persone sieropositive di cui una parte neanche ignora totalmente di essere infetta. Professor Moroni, si aumenta anche l'età dei sieropositivi, anche tra i sessantenni, quindi persone apparentemente insospettabili, è vero? Certo, oggi il contagio non è più circoscritto né a strati sociali particolari o strati culturali particolari, né a fasce di età. Si infettano i ragazzini alle loro prime esperienze sessuali. Ci sono dei ragazzini che prima di avere un rapporto con il proprio o la propria partner preferiscono sperimentare il rapporto sessuale con la prostituta, in modo da trovarsi preparati poi quando dovranno avere il primo rapporto con il partner o con la partner. Poi ci sono le occasioni legate ad esempio alla frequentazione delle discoteche. Chiaramente non è la discoteca in sé, ma è lo stato di stanchezza o magari esasperato da un po' di alcol o da qualche droga che viene presa alle 3, alle 4 del mattino, si ha l'occasione di fare l'amore con un ragazzo o una ragazza. È difficile pretendere che i nostri figli, i nostri nipoti in quelle situazioni abbiano la lucidità anche semplicemente di estrarre il preservativo ed indossarlo. Lella, tu come fiancheggiatrice del CESVI ti rivolgi soprattutto anche ai ragazzi in occasione di questa giornata. un appello che noi ci sentiamo di fare anche come Radio 24 all'interno della nostra trasmissione, in cui parliamo spesso ai genitori, ma ragazzi, proteggetevi, è un po' questo, no, l'appello che vogliamo fare oggi. Direi proprio di sì, anche se mi rendo conto, capita spesso quando se ne parla in tavole rotonde, incontri, che ci sia qualcuno che obietta anche del tutto giustamente che forse non è semplicemente un problema di proteggersi, ma anche di dare diversi valori alle relazioni, quindi alle relazioni affettive, anche alle relazioni sessuali. Tutto verissimo, però comunque dovrebbe, come dire, diventare quasi automatico. Poi è chiaro che bisogna anche spiegare ai ragazzi che non è che sono condannati ad usare profilattico per sempre, che all'interno, certo, di una relazione stabile in cui ci si assume veramente la responsabilità dei propri comportamenti, ovviamente poi la sessualità si può vivere in modo più libero e anche con più non sereno, necessariamente, certo, con funzioni procreative, ma ovviamente anche. È molto difficile far passare questa cosa qui, che non è non è un'opzione, insomma, proteggersi o meno, bisogna proprio farlo, soprattutto nella fase della sperimentazione, e soprattutto perché appunto, come dicevi tu, come diceva prima la dottoressa, insomma, non vale il criterio della dolosità. Non è che magari uno è infetto e lo fa apposta, magari non lo sa. Non lo sa. E magari è molto giovane, e magari appunto non ti aspetteresti mai, perché non ha avuto relazioni particolarmente promiscue, non ha avuto né come età né come storia personale. Ed è questo, insomma, io ho visto morire persone giovanissime e assolutamente, da quel punto di vista, anche se è una parola, categoria che non mi piace usare, innocenti. Sì. Questo è spaventoso, e su questo bisogna assolutamente puntare. Poi da qui a dire comportamenti in generale, anche affettivi più consapevoli, è ovvio che siamo tutti disponibili a farlo, però non dimentichiamoci che in questo momento è indispensabile innanzitutto informare correttamente, cosa che, appunto, diceva giustamente il professore, non si riesce più a fare tanto, perché ormai l'AIDS non è più la prima pagina. Certo. E questo è non so, anche lì forse non c'è un particolare dolo, è che ci sono tali e tante le sventure, le tragedie, le emergenze che continuamente si affacciano alla nostra coscienza, che dobbiamo farlo. Lei prima, il professore prima giustamente diceva, è scomparso il vaiolo, però è tornata la TBC. Che, anche, certo, no? Che si, certo, credeva una malattia del passato, certo, e quindi non bisogna, sì, è tornata la sifilide, insomma, ci sono delle malattie che, sì, dei rientri, delle rentrée pericolose, sì, dottoressa, scusi, sì, tutte queste malattie a trasmissione sessuale erano quasi scomparse nei momenti in cui si facevano le grandi campagne di informazione per la prevenzione all'AIDS e all'uso del prossimo conservativo, oltre ovviamente a una gestione più consapevole della sessualità. Oggi che è caduta questa attenzione nei confronti dell'HIV, assistiamo a un preoccupante ritorno di tutte le malattie a trasmissione sessuale. Dottoressa Suligoi. Alla luce di quanto ci siamo dette in occasione di questa giornata, lei che è direttore di questo centro operativo così importante dell'Istituto Superiore di Sanità, se dovesse rivolgersi ai ragazzi o anche a degli uomini, delle donne in età matura, abbiamo visto dai dati che lei ci ha presentato che, insomma, non sono solo i giovanissimi ma anche proprio persone nel cuore della loro vita, che cosa si sentirebbe di appoggiare e sostenere? Anche lei diventi fiancheggiatrice, insomma, eh? Io sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto la signora Costa prima, effettivamente l'utilizzo del preservativo ci consente di poter garantire ai giovani, ma anche appunto alle persone adulte, la possibilità di sperimentare e di vivere la sessualità in modo tranquillo, di proteggerci non soltanto dall'HIV ma anche da altre infezioni che, come ha detto correttamente il professor Moroni, si trasmettono per via sessuale e sono la maggior parte in risalita, non ce ne rendiamo conto perché non se ne parla, ma calcolate che alcune di queste infezioni che si contagiano attraverso i contatti sessuali, come per esempio le infezioni da clamidia o come per esempio l'infezione da HPV, possono portare alla sterilità, possono portare al carcinoma a livello genitale, quindi sono infezioni estremamente importanti. Riportare l'attenzione su questo tipo di infezioni è fondamentale per i giovani, essenzialmente. Ricordiamo l'utilizzo del preservativo assolutamente in tutte le occasioni in cui ci si trovi di fronte a un partner di cui non conosciamo tutta, certo, tutta la storia, e uno strumento così semplice, così facile da utilizzare. E poi, se per caso ci troviamo di fronte a una persona che ha avuto un'esposizione a rischio, cioè un contatto sessuale con un partner che non conosce bene ed è stato stato un rapporto non protetto da preservativo, fare il test HIV, perché questo gli consente di identificare in modo tempestivo le persone che si sono infettate, che quindi possono ricorrere immediatamente a terapia e ad un management medico adeguato e quindi non contagiano gli altri, e queste persone hanno un'aspettativa di vita addirittura oggi di 30-40 anni grazie alle nuove terapie antiretrovirali disponibili. Ringraziamo la dottoressa Barbara Suligoi per essere intervenuta. Grazie dottoressa. Grazie a voi tutti. Buona giornata e buon impegno. Professor Moroni, semel in anno, vero? Basta un'occasione per infettarsi dell'HIV, è vero? Sì, le statistiche dicono diverse cose, però insomma, se un partner è portatore del virus, nella maggior parte dei casi in queste situazioni il partner non è a conoscenza, perché altrimenti utilizzerebbe delle misure, ma se è infetto ha il virus sia nelle secrezioni vaginali, se è una femmina, o nello sperma. Quindi quando queste secrezioni vengono a contatto con un'altra mucosa si può realizzare il passaggio. Le variabili sono diverse, quanto virus è presente, come sono le condizioni delle mucose, ma è chiaro che non è possibile caso per caso quantificare il rischio. Bisogna partire dal concetto che ogni rapporto con una persona sieropositiva è potenzialmente infettante, e che noi non sappiamo, se non quando abbiamo approfondito la cosa, se il nostro partner è sieropositivo o no. Non ce l'ha scritto in faccia, né mostra segni di malattia. La grande maggioranza delle persone sieropositive stanno benissimo, non hanno nessun sintomo, nessun segno che possa permettere di riconoscerle. È solamente l'accesso al test che ci dice se una persona è sieropositiva o no. Che è un vero e proprio strumento di prevenzione il test, perché evita che la persona, non sapendo di essere sieropositiva, infetti altre. Lella. Assolutamente. Mi viene in mente una delle prime campagne appunto di sensibilizzazione, non so se ve la ricordate, in cui si vedevano si indicavano le persone con la linea blu. Con la linea blu o viola, sì. Quello che era, che uno diceva, vabbè, sto con uno che non c'ha quella roba, non c'ha l'aura intorno, quindi sto a posto. Non si vede appunto, quindi bisogna assolutamente usare il test ragionevolmente. Allora non bisogna, credo, neanche istigare e incoraggiare la paranoia, no? Certo. E all'ipocondria, per cui se si pensa di avere avuto degli incontri o degli stili di vita a rischio, fare il test. Il test oltretutto credo che sia totalmente anonimo, no? Quindi dovrebbe essere... Il test è anonimo e gratuito. Attorno al test si scarica un po' tutta quella cornice di clandestinità e di pregiudizio che c'è attorno all'HIV. Per cui oggi una persona va senza nessun problema a vedere se ha contratto il virus dell'epatite B o C. Certo. Quando si tratta però di andare a verificare se si è sieropositivi o no, scatta una sorta di timore riverenziale nei confronti di un esame che è semplicissimo. Noi come classe medica e anche come Commissione Nazionale AIDS ci stiamo allestendo, stiamo facendo in modo che l'accesso al test sia il più facile, il più ordinario possibile, e passare dalla disponibilità del test all'offerta attiva, certo, da parte delle strutture sanitarie. C'è questa, ci collegheremo con una psicologa dall'AIDS, la dottoressa Silvia Negri, che si trova proprio in un'unità mobile a servizio dell'iniziativa Easy Test, promossa dall'ospedale San Raffaele e dall'ospedale Sacco qua a Milano e sostenuta naturalmente dall'AIDS e Milano Contro l'AIDS. Ci collegheremo con lei perché in questi momenti è proprio in questa unità mobile, quindi ci racconterà un po', ci darà il polso della situazione. Ma prima dei mercati voglio salutare la dottoressa Claudia Gandolfi, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno dottoressa Gandolfi. La dottoressa è medico CESB in Zimbabwe, 15 anni di esperienza in Italia, 20 pensate nei paesi del sud del mondo, è pediatra, è specializzata in puericultura e neonatologia e ha avviato il progetto di cui parleremo subito dopo i mercati, il progetto CESB, fermiamo l'AIDS sul nascere. Parliamo del 2001, vero dottoressa Gandolfi? Sì, sì, l'abbiamo avviato nel 2001. Bene, esatto, sì. Di questo parleremo la dottoressa Gandolfi con la sua esperienza ci racconterà al momento che cosa succede in Africa e l'impegno del CESBI, citiamo il CESBI ma anche l'ANLISE, ci sono per fortuna tante associazioni, come ricordava la Costa, di volontari, di medici che si mettono a servizio e non vengono tante volte citati sui giornali. Noi oggi vogliamo ringraziarli tutti. Siamo tornati insieme oggi in studio, con noi abbiamo il professor Moroni, abbiamo Lella Costa, siamo al primo di dicembre, quindi giornata mondiale contro l'AIDS, e noi andiamo in Africa con la dottoressa Claudia Gandolfi del CESBI. Dottoressa Gandolfi, lei nel 2001, dicevamo, ha portato avanti questo, ha inaugurato questo progetto Fermiamo l'AIDS sul nascere, non a caso. Perché, dottoressa Gandolfi? Ma perché la diffusione dell'infezione da HIV AIDS in Africa è stata completamente diversa da quella dei paesi a sviluppo avanzato, cioè fin da allora, dall'inizio, il primo caso è stato descritto nell'85 in Africa, la trasmissione è stata quasi esclusivamente per via eterosessuale, quindi una diffusione capillare a tutta la popolazione, quindi alle donne e di conseguenza anche ai bambini, cioè moltissimi bambini venivano contagiati dalla mamma durante la gravidanza, il parto, l'allattamento. E questo ci ha fatto nascere così l'idea di poter fare qualcosa proprio per i bambini che inconsapevolmente venivano contagiati. Sotto questo profilo è nato questo progetto. Il progetto del CESVI è un progetto che prevede non soltanto ovviamente la somministrazione di un farmaco, ma prevede tutta una serie di interventi, cioè un test HIV, counseling, supporto per la mamma durante la gravidanza e dopo il parto, perché dopo il parto c'è anche il problema dell'allattamento del bambino. Certo. E inoltre prevedeva la somministrazione di un farmaco, un regime monodose, che è un regime tra l'altro promosso e approvato dall'OMS, di un farmaco che si chiama nevirapina, che viene data al momento del parto alla donna e poi viene data una dose anche al bambino dopo la nascita. Questo intervento ha permesso così di dimezzare la trasmissione del virus HIV dalla madre al bambino, considerando che durante il parto avviene anche il 50% della trasmissione del virus. Questo regime era facile da attuare, quindi facile la somministrazione e soprattutto poco costoso, e questa è stata la scelta che ha fatto il CESI, cioè di usare questo tipo di regime che era l'unico possibile in quel momento e che comunque ha dato dei grossissimi risultati. Lei è appena tornata, vero, dall'Africa, che paese ha trovato? Ma ho trovato uno Zimbabwe, era un po' di tempo che non andavo in Zimbabwe, è completamente diverso sotto il profilo dell'infezione HIV/AIDS. Quando ho iniziato il progetto nel 2001 c'era tantissimo stigma, discriminazione, non si poteva parlare di HIV neanche con gli operatori sanitari alle volte. Adesso senz'altro la situazione è notevolmente migliorata, si parla più di HIV/AIDS, si fa tanta promozione della prevenzione per i cambiamenti di comportamento. La prevalenza stessa del virus è diminuita, si è passati dal 26% nel 2001 al 15% adesso, ultimi dati del 2008, e soprattutto è iniziato anche l'accesso agli antiretrovirali. Cioè ora il 20% della popolazione che necessita della terapia può accedere a questi farmaci. Professor Moroni, un commento a questi grandi, risultati, sono dei successi. Sì, direi il successo più grosso è stato aver dimostrato che le cure che si applicano oramai qui in Italia da diverso tempo sono trasferibili anche in contesti difficili come quelli africani. Non è vero quello che si temeva in un primo tempo, che non ci sarebbe stata la cultura, la capacità di assumere farmaci, di curarsi, di sottoporsi al test. Là dove iniziative come queste e altre iniziative sono state condotte con rigore e con la collaborazione delle istituzioni locali, si è visto che la popolazione ha una gran voglia di curarsi e di non morire. E quando ha toccato con mano che prima si moriva e con le cure non si muore e nascono bambini sani, c'è la corsa al farmaco e c'è una adesione paragonabile a quella che troviamo qua. Direi il grosso successo di queste operazioni è quello di avere ingenerato in questi poveri persone, maschi e femmini, la consapevolezza di avere diritto a vivere e a superare una malattia così come l'abbiamo noi. Leila ci raccontava fuori onda, e poi non abbiamo potuto sentire tutto il racconto perché siamo andati in onda per l'appunto, di questo tuo incontro con le mamme africane. Sì, in generale spero di non urtare la sensibilità di nessuno, però per quello che ho visto e che mi è stato raccontato anche dagli operatori, appunto, la situazione si è potuta appunto avviare a una sorta di positività unicamente quando a prenderle in mano sono state le donne. Perché sono intanto le donne che pagano il prezzo più alto dello ostracismo sociale, quindi della riprovazione della comunità quando dichiarano di essere sieropositive. Per una madre che ha partorito e non allatta per evitare la trasmissione del virus equivale appunto a dichiararsi malata, ma soprattutto nel momento in cui le donne si fanno carico, allora escono esperienze veramente toccanti, come la creazione di queste memory boxes, le scatole della memoria, in cui le donne, perché appunto il counseling prevede anche un accompagnamento psicologico attraverso un percorso che, ahimè, molto spesso, non dimentichiamoci che queste donne magari riescono a mettere al mondo un bambino non contagiato e sano, ma loro sono malate, e quindi la prospettiva che hanno davanti è quella di convivere con la malattia il più possibile, ma spesso avere un esito invece. E quindi in queste scatole della memoria raccontano di sé, mettono quello che vorrebbero lasciare ai loro figli, magari ci sono poesie o fiori, o spesse volte la cartella clinica che le identifica, ahimè, molto più che altre storie. Sempre, sempre ci sono i profilattici. È un segno proprio, è una specie di passaggio di testimone e di memoria. E questo è, insomma, è toccante, ma è anche appunto la sensazione che forse non è vero che si è condannati, soprattutto un continente come l'Africa, e non avrà mai via d'uscita da questa pandemia. Anzi, spaventosa, si potrà liberare, e anche un po' con l'aiuto di tutti. Io in questa occasione mi permetto di toccare un po' la sensibilità dei nostri ascoltatori, perché in questa giornata è importante sì raccogliere tutte le informazioni, ma mettersi anche un po' in gioco. Dottoressa Gandolfi, quindi sostenere le associazioni. Noi in trasmissione abbiamo l'Unlize, abbiamo il CESVI, ma ce ne sono tante che operano e molto seriamente. Dottoressa Gandolfi, d'altronde basterebbe pochi soldi per salvare un bambino, vero? Certo, certo, certamente, cioè, anche perché ogni cosa... Veramente quasi quanto mangiare una pizza? Sì, esatto. Un caffè. Ecco, esatto, perché poi tutti questi progetti, come diceva giustamente il professor Morone, hanno portato proprio a una sensibilizzazione, a un cambiamento di vita, soprattutto a una speranza di vita. Quindi ogni cosa che si può fare, anche piccola, serve a ricostruire un futuro per l'Africa, a poter di nuovo progettare una vita, ad esempio per i propri figli, e questo è importantissimo. E l'Africa non è lontana. Per il futuro non c'è vita. Dottoressa Gandolfi, io la ringrazio per essere stata con noi, soprattutto per il suo impegno. Buona giornata, grazie. Grazie. Abbiamo Anna da Brescia e Massimo da Verona, che sentiamo prima di andare sulle informazioni del traffico, e poi ci collegheremo con l'unità mobile per capire chi entra in questa unità mobile, se sono, chi sono, più uomini, più donne, se c'è un po' di timore, paura, come riescono i volontari a mandare questo messaggio. Fate il test, è uno strumento preventivo. Anna, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare una domanda. Certo. Al professore. Sì. Perché lavoriamo in ufficio e noi donne siamo un po' curiose. La cosa che ci interessa sapere, se una persona risulta negativa al test, c'è la probabilità col tempo in futuro che possa diventare sieropositiva? C'è l'incubazione di un anno, due o... Ah, quindi, professor Moroni. Signora, il test mette in evidenza la nostra risposta anticorpale nei confronti dell'infezione. Se siamo stati contagiati con un certo intervallo di tempo, che al massimo sono di 3 mesi, compaiono degli anticorpi, e a quel punto il test ci dice se ci sono o no. Se non ci sono, vuol dire che c'è andata bene. Questa non è un'assicurazione per la vita, ovviamente. C'è andata bene fino a quel momento. È chiaro che se dopo aver fatto il test e l'esito negativo si hanno altre occasioni di rischio, il test fatto in precedenza non vale più e occorre ripeterlo. Massimo da Verona, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Niente, siamo qua. Nei giorni scorsi ho sentito dell'esistenza di un profilattico al femminile per le donne, e volevo sapere se era altrettanto valido e come sistema. Sì, esiste un profilattico al femminile. In Italia non è in vendita, non è commercializzato, lo si può trovare in Svizzera e in Francia. Però l'applicazione di questo profilattico femminile è un po' indaginosa, non è così immediata e semplice come l'applicazione del profilattico maschile. Occorre un'abitudine, una certa disponibilità da parte della donna e da parte della coppia ad utilizzarlo. Quindi meglio al momento, no? E ma accontentiamoci di quello che c'è funziona, usiate. Funziona, si è messo bene, funziona. È una membrana di gomma che separa una mucosa potenzialmente infettante da un'altra in grado di ricevere il contagio e attraverso la quale il virus non passa, semplicissimo. Lella, io vorrei che tu commentassi questa descrizione del profilattico del professor Moroni, geniale, che secondo me dovrebbe essere utilizzata come slogan, no? Sì, come... però sai, detto da lui è una cosa. È un'altra, ma noi lo catturiamo. Ha un'altra autorevolezza e un'altra capacità di sintesi, cioè non te la dimentichi. Siamo tornati e in linea con noi abbiamo la dottoressa Silvia Negri. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a voi. Psicologa Anlais, l'avevo già anticipato il suo collegamento perché in questo momento si trova in questa unità mobile a servizio dell'iniziativa Easy Test. Esatto, in questo momento sono sull'unità mobile in piazza Duca d'Aosta, in stazione centrale. Allora, non sono sola, ci sono dei medici, dei biologi dell'ospedale San Raffaele e tanti volontari Anlais che si impegnano con la solita sensibilità a coinvolgere la popolazione, perché insomma il nostro obiettivo è la prevenzione. Ecco, insomma. Chi sale sulla vostra unità mobile, dottoressa? Sì, allora, diciamo che è un'iniziativa che sta riscuotendo molto successo, sale c'è un'eterogeneità, diciamo, di persone, in prevalenza giovani, non giovanissimi, quindi una fascia d'età, diciamo, media di 35 anni, in prevalenza uomini. Prevalenza uomini, e ci ha colpito tantissimo l'affluenza di persone straniere e soprattutto probabilmente persone che magari con più difficoltà accederebbero a diciamo agli ospedali, comunque per cui con grande interesse e con un grande scambio comunicativo, insomma, si presentano proprio a gruppi, a masse, e questo ci ha, insomma, chiaramente ci ha riempito di felicità, insomma. E le considerazioni nostre oggi sono un po' parziali, perché chiaramente l'iniziativa è un'iniziativa ancora in atto, no? Però ci stiamo rendendo conto che forse questo sulle piazze, sulle strade, è proprio un po' la vera prevenzione, ecco. Perché c'è un'equipe giovane e la gente si avvicina con più facilità, nonostante ci sia della paura, no? Però ecco, l'incontro con l'altro e quindi la serenità che forse anche noi cerchiamo di trasmettere col nostro lavoro è efficace, ecco. Grazie alla dottoressa Negri per essere stata con noi. Buona giornata. Grazie. Al lavoro, salve, allora. Salve. Sì, certo, grazie mille. Salve. Professor Moroni, il test è gratuito, anonimo, e se anche un extracomunitario senza permesso di soggiorno si reca in un ospedale può farlo o no? E poi vogliamo descrivere questo test, perché alcuni mi chiedono: ma è un test del sangue, della saliva, sì, che cosa? Ecco. Assolutamente sì, questa è un'iniziativa promossa dall'ospedale, clinica di malattie infettive dell'ospedale Sacco e del San Raffaele, che utilizza un test sperimentale sulla saliva che è in grado di dare una risposta in pochi minuti. Se il test è positivo, poi come sempre va confermato con un test sul sangue. Quello che noi vorremmo fare attraverso questa iniziativa ed anche altre è rendere il test per l'HIV un esame facile, easy, semplice, abbordabile, in grado di dare una risposta rapidamente e non ancora aggravato da quella sovrastruttura che risale a quando le cose erano diverse, quando bisognava garantire una privacy assoluta. È chiaro che anche in questo caso la privacy è garantita. Però non c'è bisogno di andare in quelle poche strutture, in quegli ospedali dedicati, passare una trafila burocratica. Questo disincentiva il test. Noi vogliamo renderlo semplice, gratuito, riservato, assolutamente riservato, ma di facile accesso. Insomma, easy, Lella. Easy, assolutamente easy. E anche e soprattutto credo che sia il modo migliore per coinvolgere i giovani, la campagna del CESV in particolare, il fatto di unire l'informazione alle librerie, per esempio, il fatto che siano giovani studenti di medicina che si prestano e che quindi hanno una capacità intanto di assunzione di responsabilità rispetto al problema, ma poi anche probabilmente di comunicarlo ai loro coetanei. Mi sembra appunto il più possibile contaminare in modo virtuoso i luoghi della vita e fare in modo che se ne parli liberamente, perché con il più possibile la serenità. Credo che adesso, io non lo so, ma mi sembra questa iniziativa del dire basta un test della saliva, è qui, te lo portiamo per la strada, abbi fiducia, fidati, condividi, magari i ragazzi ci possono andare in compagnia, è importantissimo proprio per togliere questa valenza di malattia legata a comportamenti scorretti, a categorie che si ritengono socialmente poco accettabili, poco desiderabili, alla portata di tutti, alla portata di tutti, ma proprio anche se magari è una cosa che tendi a rimuovere, perché è un problema di tutti, ma di tutti e di tutte. Lella, tu parlavi dei volontari, dei giovani, degli studenti di medicina che fanno informazione, sì. Quindi si mettono in gioco, e noi ne abbiamo una che li rappresenta, è Alessandra Rossi Ricci, che è responsabile nazionale per l'area della salute riproduttiva del Segretariato Italiano Studenti in Medicina. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno. Allora, che cosa fate di bello voi ragazzi? Proprio parlate da ragazze ai ragazzi e la comunicazione diventa molto più easy anche in questo caso, no? Alessandra. Esatto. In realtà facciamo molte attività diverse, facciamo sia conferenze, spettacoli, fotografiche, anche raccolte fondi con il CESVI. Adesso saremo nelle librerie in una trentina di città italiane. E in più abbiamo appunto queste attività di proprio educazione sessuale, di sensibilizzazione all'AIDS, che si svolgono nelle scuole medie, nelle scuole superiori di diverse città italiane. Parlate anche agli studenti universitari però. Assolutamente, noi essendo studenti universitari comunque è una realtà con la quale ci confrontiamo quotidianamente. Quindi... Senti Alessandra, scusa, ti do del tu, ma potresti avere l'età delle mie figlie, ma qual è secondo te il messaggio che arriva di più? Perché ci sono state tante campagne, tanti messaggi, qual è quello che fora, insomma? Allora, questa è una domanda molto interessante. Chiaramente il fatto che siamo noi giovani a parlare con i giovani, devo dire che ha un riscontro molto positivo. I ragazzi, sia gli studenti universitari che quelli delle scuole, tendono ad aprirsi molto di più. Poi le campagne del CESVI, quelle che sono state più interattive, come gli spettacoli di danza teatrali, anche questi hanno riscontro. Insomma, tutto aiuta. Facciamo rete, diamoci una mossa, facciamo il test soprattutto e utilizziamo il profilattico. Mi sembra di chiudere così un po' rapidamente questa trasmissione, che dobbiamo salutare il professor Moroni e io vorrei proprio ringraziarlo per essere stato veramente, cioè è un grazie che grazie però è un grazie vero. Gentile. Grazie di esistere, bisogna proprio. Anche a Lella Costa, buona giornata. Grazie. Io vi aspetto domani dopo il GR delle 11, buona giornata. Essere e benessere.